La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Nell'ultima trasmissione vi abbiamo raccontato una parte del romanzo di Rivoluzione numero 9, che è stato scritto da Carla Vangelista e Silvio Muccino, è uscito da Mondadori nel 2011. È un romanzo drammatico commoto. La storia di due adolescenti, Sofia e Matteo. La parte di Sofia è stata scritta da Carla Vangelista e quella di Matteo da Silvio Muccino, i quali vivono a 30 anni di distanza nello stesso appartamento e avranno fra loro un rapporto misterioso, un rapporto che scavalca il tempo. E oggi vi diremo come il romanzo si conclude. Allora, riassunto della puntata precedente. Come ho detto, Sofia e Matteo vivono a 30 anni di distanza nella stessa casa. Chi sono loro? Sofia è una ragazzina magra, spaventata, ma ha un grande talismano, una immaginazione senza limiti. E non trovandosi bene con i suoi compagni di scuola, in compenso ha un grande amico segreto, un grande amico immaginario, che è Paul McCartney, proprio il Paul McCartney dei Beatles. Matteo, che ha la stessa età, è prigioniero di una madre vedova che ha fatto di lui la sua vittima, il suo piccolo marito, e lo fa vivere sotto ricatto, costruendogli addosso un Everest di sensi di colpa e sul quale butta tutte le sue frustrazioni. Il libro è dedicato a tutte quelle persone che ancora pensano che essere liberi porti alla follia, mentre il senso del libro è proprio questo, che la follia è la repressione. E l'altra volta eravamo arrivati fino alla grande notizia. La grande notizia per Sofia. Arrivano i Beatles a Roma e quindi lei finalmente vedrà Paul. Certo ne è entusiasta, ma segretamente anche spaventata. Vedrà il vero Paul. E allora sarà forse un pericolo per il suo sogno? Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Intanto si è allontanata dalle due amiche storiche perché c'è solo Elena. Elena che la porta a rubare i grandi magazzini. E lì che risente l'odore straniero, l'odore ostile. Non vista vede la segretaria del padre che sta comprando un golf che poi vedrà addosso al padre. E si confiderà di questo col solito Paul. Quando va fuori città con i genitori scrive a Paul. È il momento più alto della sua follia solipsista. Scrive alla se stessa che ha lasciato a casa. Scrive alla solitaria nella quale soltanto si riconosce. Perché Paul non mica la segue quando parte, resta in camera, abita lì come il grillo del focolare, abita nel cuore della sua paura. Oh, e una delle prodezze, perché è importante per dopo, che stupiscono Sofia le sbruffonate che fa Elena, mette il cappotto sul corrimano di marmo e poi boom, si lascia scivolare fino in fondo. Però è Capodanno, lei rimane sola e fa una festa da sola, si mette gli abiti della madre, beve un bicchiere e incontra poi Daniele, il dirimpettaio, che è solo anche lui. «Buonasera», disse Sofia a bassa voce. «Ciao, Sofia». Lei andò vicino e poggiò sul largo davanzale il suo bicchiere di aranciata. «Buon 1965», disse. «Come mai sei solo? Dovevo passare il Capodanno con mio cugino. Ma l'ultimo, lui non è venuto». «Ah», disse lei, «odio quando succede». Daniele annuì. «Sì, lo odio anch'io». è andato a una festa con altri amici? Guardiamo un po' i fuochi in silenzio, dice lui, e lei, scusa, io parlo sempre troppo. E Daniele, no, non parli troppo, sono io che sono arrabbiato. Lui non è venuto perché ha avuto paura. Di cosa? Di me. E la tua ragazza rischiò. Non c'è nessuna ragazza, disse lui. Non c'è niente. E Sofia dice a Daniele, mentre si salutano, che non è mai stata baciata. E allora lui, come augurio di Capodanno, la bacia in fronte. Più tardi, anche Paul la bacerà sulle labbra. È il suo primo bacio e proprio quella notte Sofia si accorge di essere diventata donna, che il fatale passaggio è avvenuto. Intanto Matteo ha una visione, incontra Sara. E chi è Sara? È una Sofia di 15 anni. Somiglia moltissimo alla Sofia delle Polaroid. E gli dà un appuntamento. Lui non sta in sé dalla gioia, ma preferirà seguire la madre, che lo coinvolge nella sua raccapricciante prima teatrale. Intanto però avverrà la sua iniziazione sessuale con una ragazza allegra, simpatica, Letizia, che del sesso ha una visione lieta, pagana, e gli fa molto bene. E c'è un grande avvenimento per Sofia. Sta entrando nel suo tempo attraverso la porta del Piper Club. Elena la porta al Piper, quel sogno di una Londra lontana. Intanto Elena e il suo ragazzo litigano, lui cerca brutalmente di sbattere Sofia contro il muro, lei scappa dalla nonna perché è ancora in bilico tra infanzia e mondo adulto. E anche Matteo è in bilico tra la voglia di vivere e quella di obbedire, fra essere un ragazzo vivo o la protesi della follia materna. E gli arriva un invito che lo fa saltare sul letto, al di là di ogni inibizione che gli mette quella casa. Comincia proprio a ballare, a fare un balletto, perché gli amici l'hanno invitato a passare le feste di Natale a Cortina, tutti insieme, birre, col miraggio delle ragazze, poi magari starebbero a farsi le canne tra di loro, però insomma è una bella prospettiva, invece dei riti natalizie. E la madre gli dice, ma tu ci vuoi andare? A lui invece pare che abbia detto, ma tu ci vuoi uccidere? Che poi è la vera intenzione della frase della madre. Ma stavolta Matteo è così impaziente, così felice di andare, che non si fa ricattare. Prepara il bagaglietto e va verso gli amici che lo aspettano alla stazione, va volando verso la partenza e qui incontra una vecchietta, forse una vecchiaccia, che fa la vittima perché i figli l'hanno lasciata solo per Natale. E allora il grosso guscio di tartaruga che Matteo si porta addosso, il guscio del rimorso che la madre gli ha cucito sul groppone, d'un tratto lo schiaccia e Matteo torna indietro. È il momento più tragico della sua resa. Matteo è ricattabile. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Torna dalla madre, torna dal suo orco, torna per essere divorato ritualmente dalla famiglia, come un tacchino sacrificale, come un tacchino senza speranza. E invece la speranza arriverà anche a lui, attraverso Daniele. Proprio quando ha paura di impazzire, che è arrivato al parossismo, incontra quest'uomo che è tornato a vivere lì, adesso che ha 50 anni e una nuova consapevolezza, e non nasconde più di essere gay, ed è sempre più saggio, e diventano amici. Daniele lo aiuta, non gli spiega niente, non gli dà consigli, però gli fa capire che essere liberi non è essere pazzi, che la pazzia viene dalla repressione. E poi fa una cosa semplice, quella di cui sua madre non è mai stata capace. Si interessa a Matteo, lo guarda come una persona, cerca di capire chi ha davanti e cerca anche di farlo capire al ragazzo. E Matteo, che viene dal fiasco con Veronica e è disperato, ha paura di essere impotente, ecco, attraverso di lui capirà che peso dare alle cose. Matteo si fortifica, anche se piano piano, perché all'inizio è veramente ancora troppo spaventato e troppo obbediente. E Daniele ai suoi occhi ha anche un altro fascino. Daniele ha conosciuto Sofia da ragazzina, ai tempi in cui si scattava le Polaroid. Figuriamoci la madre quando viene a sapere che qualcun altro ha la fiducia di suo figlio. Comincia a fare una guerra spietata, sleale, sotterranea ma violenta a Daniele, con pettegolezzi che lo screditano nel palazzo, e insinua che lui si interessi a Matteo per portarselo a letto. E in questo modo aiuta Matteo a staccarsi di lei, perché il senso della rivolta di Matteo passa anche attraverso la sua profonda onestà, il suo sentire con eleganza morale, che 30 anni dopo lo apparenta Sofia. Torniamo a Sofia. Nella sua famiglia è scoppiata una bomba, ma una bomba vera. La famosa caldaia, quella che la nonna si ostinava a non voler cambiare e che l'idraulico Raul, suo fidanzato di gioventù, insisteva che fosse pericolosa, aveva ragione lui, perché la caldaia è scoppiata e ha distrutto la casa della nonna. In famiglia dicono: mio Dio, questo era il suo legame con la vita, la nonna ne morirà, Sofia corre a soccorrerla, pensa di trovarla moribonda. E invece la nonna sta benissimo e le dice: sai che c'è? Mi sposo. Come ti sposi? Sì, invece di morire si sposa con 50 anni di ritardo con Raul, l'idraulico. La nonna è la più rock di tutti, anche di Elena, anche di Rolling Stones. E Sofia, che ha paura, si immerge nel suo coraggio come Siegfried nel sangue del drago. Forse allora si può uscire dallo schema. È una speranza per lei grandissima. Ma è arrivato il grande momento. Tra poco ci sarà il concerto dei Beatles. È il momento più importante per Sofia. Finalmente affronterà la prova, vedrà il vero Paul. Fuga e realtà si stanno per incontrare. E quando esce per andare al concerto, nel momento sacro del prima, sul pianerottolo risente una frase della nonna: a volte abbiamo bisogno di un boato, di un'esplosione, di una casa che crolla per svegliarci. Ma basterebbe fare un atto diverso dal solito, qualcosa che ci liberi dalla paralisi. Sofia guarda il corrimano di marmo. Si ricorda del gioco di Elena, di quell'esercizio di ebbrezza quando scendeva scivolandoci sopra, e allora salta cavalcione della ringhiera, scivola giù, ma cade e si rompe la caviglia. Addio concerto. Sofia non vedrà mai più i Beatles. Mi piace moltissimo in questo libro che sia anche un libro molto morale, cioè dove tutto è simbolico e tutto reale. È una iniziazione in veste di romanzo. Perché si rompe la caviglia, Sofia? Un freudiano osservante direbbe: perché si oppone con tutte le forze alla realtà e perché, pur di non vedere Paul dal vero, si mette nell'impossibilità di raggiungerlo. No, io credo perché, sfidando la ringhiera, lei fa un gesto non suo, preso in prestito da Elena. Non ha ancora imparato a seguire la sua natura, per questo precipita nel vuoto. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child. La guardiana del faro. Le manovre ignobili della madre contro Daniele danno a Matteo il coraggio della rivolta. La madre dice la frase malvagia su Daniele: cosa cerca un uomo della sua età da un ragazzo come te? E Matteo finalmente sbotta. Non cerca niente. Daniele è un mio amico e basta, urlò Matteo più forte. Voglio solo che mi lasciate in pace. Rosetta lo guardò con quei suoi piccoli occhi da prete inquisitore e al tempo stesso da vittima, che riuscivano a far sentire Matteo tutto il peso del giudizio e della colpa. Perché sei sempre così cattivo con me? Ecco, questa è la perfetta definizione del ricatto domestico morboso, untuoso, quando la madre diventa inquisitore e vittima, quando dice, dopo averlo torturato a morte, ma perché sei sempre così cattivo con me? Il carnefice si pretende vittima e il turbine infernale della nevrosi gira, gira, rigira e non c'è fine. Ma una fine ci sarà. Matteo troverà la forza di allontanarsi dalla madre, comincerà a vivere. È l'anno 1998 e Sofia, nel contemporaneo 1965, darà l'addio a Paul. Lui si è fidanzato e lei si è arresa all'amore per Davide, il ragazzo che l'ha liberata dal quadro svedese, il ragazzo che l'ha tirata fuori dal labirinto. Con l'addio a Paul, Sofia entra nel sogno del reale e quando Matteo la incontra, riconosce in lei una persona libera, una come lui, una che guarda la vita in faccia. Darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Ho definito Matteo e Sofia due persone libere, non certo risolte come si dice oggi, come se si potesse mai risolversi per sempre nello stato umano, solo da morti. Fra i meriti di questo libro, che tra l'altro quando l'ho letto mi ha soccorso in un momento infelicissimo e mi ha portato fuori, mi ha portato con sé, si parla sempre dell'adolescenza come di un episodio della vita limitato a un certo tempo, ma qui ti accorgi che parlando degli adolescenti parliamo di ognuno di noi anche oggi, l'inadeguatezza di allora, la paura, ma poi è così per tutta la vita. Io ancora oggi mi metto gli occhiali neri per uscire, così mi sembra d'essere invisibile. E ci è cara questa Sofia di 15 anni che si rifugia nell'invisibile, che ci riporta nella stagione del Novecento in cui, più che in ogni altro tempo, la musica è stata per i giovani filosofia, estasi, guida, anche perdizione. È anche discriminazione. Sofia ci insegna che non bastava essere dalla parte dei Beatles. Bisognava anche scegliersi quello giusto. E quando sente la ragazzina che dice io preferisco Ringo, la considera squallidissima. Ringraziamo per questo Come eravamo, che è un come siamo, Carla Evangelista e Silvio Muccino, che insieme hanno scritto Rivoluzione numero 9, questo libro della tenerezza, questo libro del terrore, questo libro crudele, disobbediente e molto ben scritto. Un libro in musica. I wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. E adesso sentiremo la voce degli autori di Rivoluzione numero 9, Carla Evangelista e Silvio Muccino. Intorno a loro c'è un'aura di mistero, fanno entrambi una vita molto riservata, credo in grande letizia fra libri e cani, sempre occupati nel loro attivissimo laboratorio di romanzi, sceneggiature e film. Carla Evangelista è sottile, sottilissima, è una vietnamita con gli occhi blu, è una bellezza serena e inquietante, è una dama impeccabile e un gentiluomo, è romantica e zen. Silvio Muccino invece è grande come un San Bernardo, esplosivo, raffinato, e uno che un giorno va un'amica a trovarlo e lo trova che singhiozza, che piange a dirotto. Dice, ma che hai fatto? Aveva appena finito di leggere Martin Eden e piangeva per il suicidio di Martin. Capitaneria di Porto, è possibile chiamare al telefono Carla Evangelista e Silvio Muccino? Capitaneria di Porto. Come richiesto, gli scrittori Carla Evangelista e Silvio Muccino sono in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto Carla, pronto Silvio? Pronto? Barbara, ciao. Eccoci qua. Ah, che bel ciuffo di voci. Abbiamo parlato fino adesso del vostro libro Rivoluzione numero 9, dove tu, Carla, hai scritto la parte di Sofia e tu, Silvio, quella di Matteo. E i capitoli si alternano perché sono storie che si svolgono a 30 anni di distanza. Ed è sorprendente l'intreccio di queste due vicende diverse che diventano una. Io vorrei sapere, proprio da scrittrice mi sono chiesta, mentre lo leggevo, ci sarà stato un grande lavoro di scaletta, di trama? Cioè, come avete fatto a far sì che le due storie diverse diventassero una? Queste domande tecniche non sappiamo mai a chi dare la patata bollente, perché in realtà la verità è che non c'è nessuna scaletta. Noi siamo assolutamente goffi nel modo in cui costruiamo queste cose, o quantomeno istintivi, cioè andiamo, in realtà si chiacchiera tantissimo, si litiga forse anche di più, ma poi quello che succede è che si crea da solo un equilibrio che non sappiamo bene definire. Diciamo, ci muoviamo con grande incoscienza, ogni volta sperando che si approdi da qualche parte, e con Rivoluzione numero 9 ci ha detto bene, mi sembra di poter dire. In realtà noi scriviamo separatamente e poi ci facciamo il segno della croce e ci auguriamo che l'altro non abbia scritto un altro romanzo. Questo succede praticamente. Beh, certo, sono molto sorpresa, perché credevo invece che aveste fatto un grandissimo lavoro di intreccio. Ovviamente no, perché altrimenti sembriamo veramente Merlino e la Fata Morgana. C'è stato un lungo momento di chiacchiere, di parole, dove io gli ho raccontato Sofia e lui mi ha raccontato Matteo. Però poi il lavoro vero e proprio di scrittura è stato fatto rigorosamente separatamente, o ciascuno nella propria stanza, nella propria casa, e poi c'era già successo con Parlami d'amore, questa specie di, però veramente in questo caso incantesimo, per cui i capitoli combaciavano, le nostre storie non facevano a cazzotti e si era ricreato questa specie di miracolo. Beh, infatti, non a caso lavorate sempre insieme, perché evidentemente c'è un'alchimia formidabile. Ma in questo caso poi avevamo un grande aiuto, nel senso che ci muovevamo, è vero, in due epoche diverse, ma all'interno di uno stesso appartamento, e i riferimenti, una volta stabiliti i riferimenti obbligati, proprio gli spazi dentro i quali Matteo e Sofia si muovevano, noi avevamo una libertà enorme, la libertà di tirar fuori i nostri adolescenti, che in effetti sono la parte migliore sia di me che di Carla, e forse è proprio per questo che questo libro ha trovato questo equilibrio, perché in fondo quando ci siamo conosciuti io e lei ci siamo trovati in sintonia, abbiamo messo quei due adolescenti in sintonia, hanno iniziato a parlare tra di loro e si sono trovati molto bene a giocare insieme, per cui in realtà abbiamo portato dentro il romanzo quel tipo di dialogo, quel tipo di paure, quel tipo di desideri, insomma abbiamo permesso a quelle due voci di esprimersi liberamente. Com'è nel vostro destino? La domanda personale. Io vi ho visto in pubblico di rado, ma avete sempre una leggerezza, una misura, e non fate vita mondana, però la mondanità si occupa di voi e c'è tutto un gran chiacchierare sulla vostra collaborazione e sui vostri rapporti. Ma è vero che siete innamorati? Ah sì, innamoratissimi, come Mogol e Battisti. Come Mogol e Battisti. Grazie Carla, grazie Silvio e grazie per questo libro. Grazie a te, buona giornata. Grazie Barbara, a te. No, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. Alright. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ho cercato in tutto e per tutto di innamorarmi di lui, mentre fingevo quando facevamo l'amore, o mano nella mano per la strada, e nei fine settimana romantici. Perché? perché lui è buono, innamoratissimo, perché i suoi mi adorano, perché finalmente ero importante per qualcuno, perché lui era lì ad aspettarmi sempre. Ma oggi sono infelice da morire. Non posso lasciarlo, lo farei soffrire. Sono stata la stronza delle stronze. Ho illuso lui e me stessa. Meglio solo adesso che triste e cornuto dopo. Cerco di allontanarlo poco alla volta. Mi dispiace. Non volevo che finisse così. Ma lui era così disponibile, sempre. Troppo. Per un cuore infranto, affamato d'amore. Perdonami, Linda. Scusa, ma perdonami chi? Io non ho niente da perdonarti. Mica l'hai fatta con me la tua commedia. Quanto a lui, credo che ti ringrazierà invece se lo lasci subito. Cosa vuol dire un po' per volta? Come uno che avvelena un po' per giorno. Tu, per onestà, gli devi una scena repentina che tronchi subito l'equivoco. Ma scusa, che ci vuole a dire come l'hai detto in questa lettera? Che avresti voluto, che ci provavi, ma non era vero. Senti, qui, cara Linda, tutti dovresti cercare uno che non sia né così buono né così disponibile, anzi magari un gran bastardo, però simpatico e sensuale. Uno per il quale daresti via in blocco il finto fidanzato e i finti suoceri. Prenditi magari un mostro, ma che ti piaccia veramente. Carissima, è una storia solamente mia, che sicuramente non gli appartiene neanche un po'. Non saprò mai se è una storia d'amore per lui, con occhi troppo piccoli e scarpe troppo brutte, o se l'amore non c'entra per niente, ma è solamente una cosa mia, una scemenza. Questo aspettarlo e non vederlo arrivare, per spiare se lui mi guarda, per sentirmi bloccare il respiro ogni volta che spunta da lontano. E che dire poi di quella volta che lo vedrò arrivare con un'altra? Che ti starà proprio bene. Quella che tu chiami scemenza è molto peggio. È rifiuto del reale e adagiarsi in una beatitudine fetale quando invece si è già nati e adulti e non si nuota in memory, ma ci si risveglia urlando di dolore. Ma forse no, forse sarai all'altezza della tua immaginazione inutile, ma utile forse per non affrontare la vita. E può essere pure che quando sarai superata dalla realtà tirerai un sospiro di sollievo. Tutto fottuto? Meglio. Così sognerai in pace, avviandoti per tempo alla morte, confondendo intenzioni, figure e sentimenti e raffigurandoti l'amore senza averlo vissuto mai. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. Quando si sente You are my sister di Anthony and the Johnson, vuol dire che Simon si sta avvicinando, o come si chiama nella sua pagina Facebook sull'astrologia, Simon and the Stars. Sta arrivando ricco come Paperone, ricco di 5.000 seguaci, antica parola italiana per followers. E come aveva promesso l'ultima volta, Simon ci farà degli oroscopi fulminei, segno per segno, e sarà un appuntamento fisso alla Guardiana del Faro finché durerà questa trasmissione. Ma già, quanto durerà? Non lo sappiamo. Possiamo sempre interrogare le stelle. Gli ascoltatori che ci seguono lo hanno conosciuto quando era l'ortolano di Capo Finisterre e si chiamava Robert de Sallou, con uno sfacciato riferimento a Proust. Ma solo sull'identità Simon è misterioso, perché nella sua indagine celeste è chiaro come una luna. Eccolo con la musica di Anthony e con i suoi responsi, segno per segno. You are my sister and I love you. Buongiorno Simon. Buongiorno Barbara. Allora dai, eccoci. Gli oroscopi, facci sapere cosa sarà di noi. Allora, questo intanto è un debutto, perché è la prima volta che li faccio ed è una tecnica che sto un po' sperimentando. Allora, gli oroscopi che ti porto sono basati sulla luna e sulle fasi lunari, e questo in particolar modo sulla luna piena del 19 e del 20 di settembre. La luna piena, essendo la fase di culmine del ciclo lunare, porta con sé un'illuminazione, solitamente un suggerimento, un momento di intuizione. Chiaramente, segno per segno, questa intuizione avrà un contenuto e un ambito differente, a seconda della geografia, del posto nella geografia della carta natale di ciascuno in cui cade. cominciamo con l'Ariete, che il cui suggerimento è che occorre trovare un sistema ordinato e un compromesso tra ordine e caos, perché l'Ariete è in un momento di massima ribellione creativa. Un eccessivo ordine imposto soffocherebbe questa creatività, ma un eccessivo caos le impedisce di esprimersi in forme sensate. E quindi la partita dell'Ariete in questo periodo è trovare un compromesso tra l'ordine e il caos. Per il Toro direi che il suggerimento della Luna piena è che il Toro deve imparare l'era del rischio saggio, perché la saggezza sta nel fatto di seguire il suo intuito, che solitamente non lo tradisce, quindi di chi fidarsi e di chi non fidarsi, ma il rischio sta nel fatto di superare la paura che ha di iniziare cose nuove, che è una cosa che solitamente lo blocca. Sui gemelli la rivelazione ha a che fare con la selezione delle cose, perché nella vita dei gemelli in questo momento ci sono probabilmente troppe cose, troppi progetti, troppe persone anche, e per arrivare ad avere un vero successo occorre che i gemelli imparino a discernere e a eliminare quelle nelle quali credono meno, che in questi giorni della luna piena probabilmente gli diventeranno più fastidiose che mai, perché è così che la luna agisce, tramite le sensazioni più sottili. Per il Cancro la rivelazione che arriva con la luna nuova ha a che fare con la necessità di guardare più in là, di allargare gli orizzonti, perché il Cancro è un segno abbastanza legato alle abitudini, che trova sicurezza nelle abitudini, e invece avendo il passaggio di Giove, che è un passaggio di estrema fortuna, è quasi costretto a allargare il proprio angolo visuale, anche a intensificare dei rapporti con l'estero, imparare cose nuove, insomma andare dove non è mai stato. Per il Leone la rivelazione portata dalla luna piena ha a che fare con i soldi, con le finanze e con i risparmi, perché il Leone è in un momento di grande rivoluzione, avrà il suo momento di conclamazione l'anno prossimo, a metà del 2014, sta investendo su di sé, ma deve tenere delle riserve per finanziare questo investimento su se stesso. E questo ha a che fare proprio con la capacità di imparare a gestire in modo ordinato le risorse. Non è tanto una questione economica, è una questione di imparare il senso del risparmio. Diciamo che al leone viene molto bene la cicala e un po' meno la formica, però deve averle entrambe. Per la Vergine il suggerimento della luna piena riguarda la vita di relazione, soprattutto la vita di coppia, che in questo momento per la Vergine è molto importante, ma il rischio che deve evitare di correre è quello di perdere eccessivamente il senso di sé quando è in coppia, quindi non abbandonare abitudini, passioni, hobby, desideri in favore dell'altro, che è un rischio che in questo momento può correre. Per la Bilancia il suggerimento della luna piena è che è un momento giusto per assecondare un desiderio di isolamento. La Bilancia solitamente è molto socievole, vive circondata di persone, sta per iniziare un nuovo ciclo solare il prossimo ottobre ed è in un momento di raccoglimento, quindi se è infastidita dal fatto di avere troppe persone intorno ed è in un momento di riflessione da sola, è il caso che segua questo suggerimento e che si isoli un po' in questo periodo. Per lo Scorpione il suggerimento della Luna è quello di esprimere la propria creatività senza lasciarsi condizionare da cosa gli altri si possono aspettare da lui, che è un suggerimento molto anomalo per lo Scorpione, che è un segno estremo. Di solito è solo bianco e solo nero, o lo si ama o lo si odia e non ha compromesso. In questo periodo invece rischia di essere condizionato da quello che ci si aspetta da lui, perché il transito di Saturno gli toglie un po' di punti fermi sull'identità, quindi probabilmente in questo momento è lo stesso Scorpione che non sa esattamente bene chi è e quindi cosa, che tipo di creatività esprimere. Per il Sagittario il suggerimento della Luna è riprendetevi ciò che vi spetta, perché il Sagittario nell'ultimo anno si è lasciato un po' saccheggiare, quindi i propri meriti, i propri successi, riprendeteveli anche un po' sgomitando se qualcuno tenta di appropriarsene, e non lasciate più che una certa mancanza di autostima vi possa lasciar saccheggiare. Per il Capricorno la luna piena cade insieme finalmente al termine del moto retrogrado di Plutone, che li ha un po' confusi su questioni riguardanti l'identità e il cammino che stanno compiendo, per cui dovrebbe fornirgli una piccola conferma che sono sulla strada giusta. La maggior parte dei Capricorni sta cambiando vita o carriera, sta tirando fuori delle cose che non ha mai espresso finora e che probabilmente rappresentano il vero talento, e di questo ormai non possono più non prendere atto. negli ultimi mesi Plutone retrogrado li ha confusi molto su questo punto, e adesso fortunatamente Plutone torna diretto, quindi probabilmente avranno una conferma che sono sulla strada giusta. Per l'acquario il suggerimento della luna piena è che occorre fare pulizia, occorre eliminare tutta la sovrabbondanza di cose proprio in senso materiale, svuotare gli armadi, eliminare cadaveri che sono in casa, che non sono utilizzati da secoli, e non solo eliminare, ma anche dare una nuova vita alle cose, quindi fare che le cose non si ammucchino, ma vadano a chi realmente le usa, perché è impossibile, diciamo, accogliere il nuovo finché c'è un sovraccarico del vecchio, e l'acquario probabilmente deve imparare un po' a lasciare andare quello che non gli serve più, sia simbolicamente che proprio materialmente. Per i pesci un discorso un po' particolare, perché questa luna piena cade in pesci, quindi in qualche modo è la loro luna, ed è una luna che io chiamo la luna mannara, perché è una luna che tira fuori in qualche modo l'identità del momento che stanno vivendo senza filtri, e in una maniera che non è possibile ignorare, per cui probabilmente ci saranno certe cose che li infastidiscono, che in questi giorni della luna piena li faranno imbestialire, mentre ce ne sono altre che sono integrate nella loro vita, che li commuoveranno fino alle lacrime. Quindi in qualche modo una sorta di bussola emotiva che punta senza filtri la direzione in cui stanno andando, e che consiglio di tenere ben presente, perché è molto più veritiera di quanto non sia la luce del sole di giorno, che è molto più filtrato dall'intelletto razionale, dalla diplomazia, dal senso del dovere. Invece la luna in qualche modo scopre il nervo emotivo e ti dice cosa sei e cosa non sei più. Grazie Simon. E senti, cosa vedi sul faro? Quali astri si muovono sopra il faro? Guarda, ti rispondo con una cosa che ho sentito dire in Cornovaglia. Sai che la lama di luce di un faro raggiunge le 36 miglia, mentre la sfericità terrestre raggiunge le 25, il che vuol dire che la distanza di un faro è visibile anche da Marte. Grazie Simon, però dico la verità, non ho capito molto bene. Ma che fai? Parli come la Sibilla? Sì. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Antonella Migliaccio.